Questo capitolo quindicesimo di Luca, in cui si parla di questa parabola, che è sempre stata chiamata parabola del figlio prodigo, ma da un po' di tempo i commentatori più giustamente la chiamano la parabola del padre misericordioso, merita mezz'ora di spiegazione. Quindi mettete il cuore in pace, fermate gli orologi che io vi farò una predica di mezz'ora stasera. No, mica vero, se no fate una faccia per dire ma io devo andare a casa a cena. È un vero peccato, però per questo io, e lo noterete sul notiziario parrocchiale, faccio in settimana una spiegazione più ampia del Vangelo. Lo trovate scritto. Se volete potete venire, perché davvero questa è una pagina straordinaria, con una ricchezza anche psicologica, non solo spirituale, grande. Io mi fermerò quei 10-12 minuti a illustrarvi solo l'immagine del padre. Perché i due figli sono entrambi fuori scena. Il maggiore perché è uno scapestrato, scappa di casa con i soldi del papà e vive una vita disordinata e poi ha la fame e deve tornare a casa non perché ha capito l'amore di suo padre, ma perché non aveva più da mangiare. Il Vangelo, amici, andrebbe letto proprio in tutti i suoi versetti. A casa mia si mangia, qui no. E l'altro figlio, quello tutto casa e lavoro, quello bravo, tra virgolette, dimostra la sua meschinità anche lui, perché giudica suo padre, lo condanna. Viene fuori a tutto tondo solamente questo papà. E siccome la predica non deve essere una spiegazione intera del Vangelo, che dovrebbe essere fatta nella catechesi, ma la predica dovrebbe mandarvi a casa con un'idea forte, ma da portare a casa. L'idea che io vi lascerei è questa. Questo padre è un passo oltre. È un passo oltre il giusto. È un passo oltre la giustizia. E in questo fa da pendant col Vangelo di domenica scorsa, l'adultera. Dove anche lì Gesù si confronta con la giustizia della legge e la supera. Questo padre dunque è un passo più avanti. Perché? Perché questo figlio che se n'è andato di casa e che si è comportato così male e che è tornato a casa solo con gli stracci, neanche con un cuore pentito, questo padre, non so se avete notato, amici, quando era ancora lontano, il padre lo vide. Vuol dire che l'aspettava, che ogni tanto scrutava l'orizzonte, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Io sono sempre commosso da vedere che questo è l'atteggiamento di Dio Padre, perché qui si parla di Dio Padre. Gli corse incontro. Cari amici, fosse capitato a noi, non lo so, magari l'avremmo fatto, magari l'avremmo aspettato in casa e dice, sei tornato, hai capito, Lazzarone, vieni qui, rendi conto. Amici, Dio è Dio. Quale torto gli facciamo pensando che lui si comporti come noi? È un padre un passo al di là di quello che sarebbe giusto. E col figlio che è rimasto in casa? Altrettanto. Questo figlio torna a casa, quando sente che c'è festa, si indigna e non vuole entrare. No, io non entro. Allora suo padre uscì a supplicarlo. Non so, amici, se voi provate anche voi la dolcezza di queste parole del Vangelo. Il papà va fuori a supplicarlo. Dai, vieni. No, non è giusto quello che tu fai. Perché questo tuo figlio, c'è un gioco di parole, eh? Ha fatto così e il padre gli risponde, questo tuo fratello. Abbiamo bisogno, amici, di fermarci a meditare su queste parole. Ma il popolo cristiano lo fa questo? No, lo fa solo a messa, quella predica lì. Poi il popolo cristiano si prende in mano il Vangelo, da sottolinearlo, da fermarsi davanti alla sua coscienza, approfondirlo, a gustarlo. Se non facciamo questo, amici, non andiamo lontano. Per questo io vi dico, coraggio, prendete sul serio il mio invito a uscire di casa per venire alla scuola del Vangelo. Non ho finito, però vorrei tentare una piccola applicazione ai nostri giorni, come cerco di fare sempre, tutte le volte che leggo il Vangelo, affinché non resti un pezzo da museo, un pezzo da collezione. Ma che bella parabola! No, che bel insegnamento! Ci invita a essere anche noi un passo più in là del dovuto, un passo più in là nell'amore. E vi porto due esempi. Quando in una famiglia si dividono dei soldi per l'eredità, è rarissimo che avvenga in modo indolore. Io ho visto tanti litigi, ho visto diverse volte persone andare in tribunale, fratelli e sorelle. Perché? Ah, ma non è giusto. Ah, figlio maggiore, no? Non è giusto come tratti questo tuo figlio. Fai le differenze. Papà ha fatto le differenze. Bene, io ho visto nella mia vita più di una volta delle persone rinunciare a una parte di eredità pur di non andare in tribunale. Ho presente nome e cognome una donna di una mia parrocchia precedente, che di solito le donne sui soldi sono abbastanza di solito, che ha rinunciato a 60.000 euro a favore del fratello, perché nella divisione il fratello voleva così, pur di non andare in tribunale. Quando mi ha chiesto un parere, io le ho detto, guarda, chiedi prima le tue figlie, perché le tue figlie ti potrebbero rimproverare domani e dire, beh, ma quelli poi erano soldi nostri, no? Ma le mie figlie sono d'accordo, guarda, hai due figlie in gamba, si vede che le tirate su bene perché tu sei in gamba. Un passo in là. E anche un passo in là quando in una famiglia avvenisse un tradimento coniugale. Avvengono, amici, tanti, frequentemente. Mi capita un uomo, un giovane uomo, disperato. Dice Don Ambrogio, io sono disperato, ho tradito mia moglie, ma io la amo, sono stato un fessacchiotto, mi sono lasciato illudere da un complimento che mi ha fatto una mia collega, una volta l'ho tradita e lei mi ha beccato e adesso vuole separarsi. Ma io la amo, ma io mi metterei in ginocchio davanti a lei. Senti, vieni qui con lei una volta. Allora viene con lei, io lo lascio fuori dallo studio, parlo con lei e dico, ma guarda, tu hai ragione. Io sono distrutta, mi dice. Se penso che nel mio letto c'è stata dentro un'altra donna, guarda, tuo marito verrebbe qui in ginocchio a chiederti perdono. Se tu sei capace di perdonarlo, ma lo ami. Io lo amo ancora. Perdonalo, non sono capace. Ho chiamato dentro anche il marito, gli ho detto mettiti in ginocchio davanti alla tua donna per l'offesa che le hai fatto. Lui si mette in ginocchio, le mette la faccia in grembo, sai, che ti chiedo perdono, ma io ti amo. Si sono separati perché lei non è stata capace, pur amandolo e pur sentendosi amata, non è stata capace di fare questo passo in più. Cari amici, quanto il Vangelo dovrebbe entrare nella nostra vita? Vi ho citato due esempi, potrei portarvene tanti, perché un sacerdote non conosce niente, ma conosce tante, tante cose della vita. Se siamo capaci di guardare il Vangelo, se siamo capaci di imitarlo con la grazia di Dio, la nostra vita cambia. Se non siamo capaci, vediamo troppo spesso i risultati attorno a noi come sono.